L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata dell'altro pianeta che precede di poco il grande trasloco, per così dire, di Radio 24 all'Expo. La prossima settimana infatti trasmetteremo in gran parte dal sito dell'Esposizione Universale, dal padiglione di Cibus Italia, dedicato, come si capisce dal nome, alle eccellenze dell'industria agroalimentare italiana e ai protagonisti del Made in Italy. Potrete venire a trovare noi e approfittare dell'occasione per fare un giro all'Expo, oppure potrete approfittare delle nostre trasmissioni per scoprire quello che c'è a Expo. Cose anche inaspettate ma utili, come il Recycling Tube di CONAI, il consorzio nazionale imballaggi, che è quello che riunisce i consorzi di recupero e riciclo dei vari materiali. Gli imballaggi in acciaio sono riciclabili, ermetici e impenetrabili, perfetti per contenere e conservare gli alimenti. In 15 anni il riciclo della carta ha portato al risparmio di 54 milioni di tonnellate di CO2. Sei tu il primo anello del ciclo del riciclo. Riduci sempre il volume degli imballaggi e schiaccia le bottiglie. L'alluminio selezionato viene pressato in balle e trasportato in fonderia. In vetreria, il rottame di vetro viene fuso in appositi forni alla temperatura di circa 1500 gradi per essere successivamente forgiato in nuovi imballaggi. Questi sono alcuni degli audio che accompagnano la visita del Recycling Tube all'Expo. Walter Facciotto è il direttore generale di CONAI e ci racconta un po' il motivo di questa installazione. Praticamente una video installazione interattiva che mostra lungo i 7 schermi che ci sono all'interno il percorso che porta l'imballaggio dal contenitore della raccolta differenziata, una volta diventato rifiuto, fino al riciclo. Quindi fa vedere con una possibilità di touchscreen di verificare come l'imballaggio dalla fase di produzione fino alla fase di riciclo, tutto il percorso virtuoso. Come mai avete scelto di essere presenti all'Expo? Innanzitutto noi abbiamo collaborato insieme ad Expo alla realizzazione del piano di sostenibilità, cioè siamo stati fra i partner che hanno definito quali erano le soluzioni migliori dal punto di vista del riciclo degli imballaggi da utilizzare durante la manifestazione. E quindi siamo intervenuti sotto diversi aspetti. Uno, quello informativo ai visitatori attraverso delle informazioni bilingue che si trovano sui totem che sono distribuiti su tutta l'area. Questa è la prima cosa. La seconda, abbiamo poi installato questo contatore ambientale che fa vedere ai visitatori non solo il livello di raccolta differenziata, ma anche quali sono i benefici ambientali ed economici e sociali che si ottengono dal utilizzare materie prime e seconde, quindi materie da riciclo, nella realizzazione di nuovi prodotti. In più abbiamo per i bambini abbiamo realizzato una video installazione interattiva che sarà presente nel Children Park. Quindi è la nostra partecipazione molto allargata, nel senso di dare un contributo non solo alla sostenibilità dell'Expo, ma anche il fatto di far vedere come funziona il sistema italiano di riciclo degli imballaggi. Il contatore ambientale. Sì. Dove lo si trova, mi diceva? Allora, il contatore ambientale è una visualizzazione che si trova sempre sui totem distribuiti su tutta l'area, in cui si vedono praticamente dal primo di maggio fino alla data in cui si vede il valore della raccolta differenziata. Per esempio, posso dirle che al 14 giugno La raccolta differenziata era il 55%. Tenga conto che l'obiettivo che ci siamo dati con Expo è di arrivare al 70%, quindi siamo comunque già a un buon livello. Viene indicato quali sono i benefici ambientali in termini di risparmio di CO2, di acqua e di energia elettrica, dovuta appunto alla raccolta differenziata e all'utilizzo di materie prime e seconde, e viene anche detto che cosa si potrebbe produrre con quel materiale che è stato raccolto, ad esempio per quello che riguarda il PET, per esempio 28.521 felpe, 539 panchine di plastiche miste, 6.957 chiavi inglesi in acciaio, 334 caffettiere moka in alluminio e via di questo passo. Quindi è un'informazione completa ai visitatori che fa anche vedere il beneficio appunto ambientale e sociale del fatto di fare bene la raccolta differenziata e di avviare al riciclo il materiale. Mm-hmm. Senta, lei mi diceva il 55% al sì. 14 giugno, quindi è un dato che lei insomma trova soddisfacente come sì, per questo sì, periodo? Sì, perché insomma all'inizio ci vuole sempre un po' di assestamento, tra l'altro inizialmente insomma si è dovuto anche intervenire su alcuni aspetti che normalmente nella fase iniziale di un sistema di raccolta devono essere aggiustati, quindi 55% dopo un mese e mezzo è un obiettivo decisamente importante. L'importante, quello che diciamo noi, non è solo il valore in termini percentuali, ma anche la qualità del materiale raccolto, che a detta di AMSA, che gestisce il servizio, è molto elevata, quindi significa che le informazioni ai visitatori sono recepite in modo corretto. Voi stimavate ad aprile, vedevo un comunicato di allora, sì, che il 40% dei rifiuti sarebbe arrivato dai visitatori, il 60% dalle aree espositive, sì, una stima che confermate? Insomma, sì, dopo è una stima che mesi. Confermiamo. Noi abbiamo fatto anche una formazione particolare agli operatori, proprio perché anche nelle aree appunto di ristoro venga comunque effettuata la raccolta differenziata in modo corretto. Vado un pochino fuori tema, poi dopo sì. la lascio, ma mi incuriosiva, prima sì. diceva state partendo per un tour del sud Italia, sì. Che cosa avete in programma? Noi per abbiamo in programma di... Dunque, noi abbiamo un piano per lo sviluppo della raccolta differenziata nelle regioni in ritardo. È un piano che è previsto anche all'interno del nuovo accordo quadro Anci-CONAI che abbiamo siglato l'anno scorso. E quindi la nostra attività, soprattutto appunto da questo punto di vista, si concentra prevalentemente nelle regioni del sud. Abbiamo firmato un protocollo con il comune di Bari circa un mese e mezzo fa, che sta dando ottimi risultati per rivedere interamente il sistema di raccolta nella città. Firmeremo appunto in questo tour un accordo con il comune di Catanzaro, anche qui per aiutarli nello sviluppo della raccolta differenziata di qualità degli imballaggi. Poi ci trasferiremo a Cosenza, dove il giorno dopo, cioè il 26, firmeremo un accordo con la provincia di Cosenza, con il comune ce l'abbiamo già, sempre nell'ottica di aiutarli nello sviluppo di sistemi di raccolta efficienti ed efficaci. Ma non parliamo mai della Sardegna. Com'è? Perché la Sardegna è una delle regioni non è una regione in emergenza rifiuti, è una regione che qualche anno fa ha instaurato un sistema di raccolta molto efficiente ed efficace, con livelli direi del nord Italia. Bene, no, quindi sono contenta per tutti i turisti che andranno in Sardegna, sì, facciano molta attenzione, sì, perché preserviamo questa regione che così insomma ha lavorato bene. Assolutamente sì. Assolutamente. Direttore, grazie mille. Beh, allora. Grazie a lei. Facciamo una pausa e poi parleremo anche di vetro e carta. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio da Laura Bettini. Abbiamo sentito poco fa il direttore generale di CONAI, Walter Facciotto. Abbiamo parlato del recycling tube che hanno esposto a Expo. Tra l'altro Radio 24 trasmetterà la prossima settimana dal padiglione di Cibus 6 Italia nell'esposizione universale. Abbiamo anche parlato con Facciotto di una campagna per rafforzare e diffondere la raccolta differenziata nel sud Italia. Una campagna che ha intrapreso anche il Comieco, che è il consorzio per la raccolta e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, parliamo di carta e cartone, quindi Comieco, che ha recentemente presentato il piano per l'Italia del Sud al Ministero dell'Ambiente, e ce ne parla Carlo Montalbetti, che è il direttore. Si tratta di un'operazione molto importante, perché abbiamo ritenuto indispensabile aiutare e sostenere le amministrazioni comunali che hanno deciso di voltare pagina nel sud a proposito della raccolta differenziata, evidentemente di carta e cartone. Quindi abbiamo stanziato 7 milioni di euro per gli acquisti sia di strumentazione, quindi cassonetti, sia di macchine che servono appunto per fare la raccolta. Di questi 2 milioni e mezzo di euro sono sostanzialmente già in pagamento, perché sono state siglate una serie di accordi che vanno dalla città di Napoli a quella di Palermo a quella di Messina. Noi ci aspettiamo da questo impulso che la raccolta, che complessivamente nel sud a malapena raggiunge 20 kg per abitante di carta e cartone, possa raggiungere rapidamente almeno la media nazionale, che si attesta intorno ai 50 kg per abitante. Quindi ci sono ancora città in cui non c'è nemmeno il cassonetto per la raccolta della carta e cartone? O diciamo che a testimonianza ci sta un cassonetto, ma che di fatto è assolutamente irrilevante rispetto alle potenzialità. Faccio un caso, quello di Foggia. Foggia, pur avendo vicino Bari, che è una città modello, tenga conto che la raccolta di carta e cartone a Bari arriva a circa 70 kg per abitante, quindi un risultato europeo. Abbiamo la città di Foggia che fa qualche chilogrammo per abitanti, quindi è evidente che ci sono ancora oggi forte disparità, ed è su queste che bisogna lavorare. Lei ha citato poco fa Bari, leggo nel comunicato che comunque anche a Bari arrivano delle novità, no? Sono stati introdotti 14 cartonmezzi. Cosa sono i cartonmezzi? Ecco, abbiamo deciso di, con ovviamente l'amministrazione comunale, l'AMIU, di identificare molto precisamente tutti quei mezzi che si occupano di raccogliere la carta e cartone, con due risultati. Il primo, la tracciabilità, cioè si segue il mezzo e il cittadino può vedere dove va. Il secondo obiettivo è il fatto che vi è la destinazione garantita di quella raccolta, che, come dicevo, nel caso di Bari ha raggiunto livelli molto interessanti. Noi ci auguriamo che Bari possa superare anche le migliori rese delle città metropolitane italiane. Questa è una bella sfida, vedremo cosa succederà. Dunque, e da qui passiamo alla ricerca Astra, commissionata dal consorzio, che voleva indagare il rapporto degli adolescenti con le tematiche ambientali. Quali indicazioni vi ha dato? Beh, molto importanti. Intanto abbiamo avuto una conferma, cioè una forte attenzione nelle fasce giovanili verso il tema ambientale. Il secondo elemento è una particolare attenzione per quanto riguarda la raccolta differenziata, nello specifico poi di carta e cartone. La terza è un'indicazione molto forte, perché la tematica ambientale a tutti gli effetti diventi uno dei, diciamo, percorsi di studio importanti all'interno del programma educativo. Senz'altro è un passaggio importantissimo. Nelle scuole si lavora già molto su questi temi, se poi dopo viene introdotto proprio un'educazione specifica e mirata, si otterranno grandi risultati. Mi par di capire, certo, che però per ora i giovani hanno molta desiderio, diciamo, di partecipare, ma ma hanno un po' di confusione in testa, almeno questo risulta. Certo. Su che punti avete notato un po' c'è un po' di zoppia, insomma? Ma guardi, intanto riuscire effettivamente a distinguere ciò che va conferito alla raccolta e ciò che invece non va conferito, questo è un grande tema che non riguarda però solo i giovani, pensiamo soltanto al fatto degli scontri nelle carte termiche, non vanno conferite alla raccolta differenziata di carta e cartone perché non sono riciclabili. Quindi tutta l'area, diciamo così, dell'attenzione, dell'identificazione dei prodotti che terminata la loro vita possono averne una nuova attraverso la raccolta differenziata è una grande tematica che è stata nuovamente segnalata e credo che su questo c'è ancora molto da fare. Ecco, come sempre, poi dopo fatta l'indagine passerete all'azione, no? Perché poi questo certo. Vi contraddistingue, direi che è una bellissima parte, insomma, che certo. Avete poi quella della promozione anche della raccolta. E a questo proposito c'è anche il doggy bag dell'Expo, che forse vale la pena di nominare in questo contesto, tra le azioni concrete. Assolutamente, infatti abbiamo pensato di dare una mano a questo grande evento che è d'Expo attraverso una specifica iniziativa che è quella appunto della lotta allo spreco alimentare, e in particolare attraverso questo team coordinato dall'architetto De Lucchi e da Andrea Kerbacher abbiamo realizzato tre diversi set di doggy bag che sono in questo momento a disposizione di circa un centinaio di ristoranti e trattorie che stanno tra Milano e la Lombardia e che mandati gratuitamente sono già oggi messi a disposizione dai ristoratori per quei clienti che intendono portarsi a casa ciò che non hanno finito di mangiare al ristorante o di bere. E devo dire che i risultati sono molto incoraggianti, si tratta proprio di un cambiamento di atteggiamento culturale che ci auguriamo possa dare i risultati, e l'appuntamento per fare il bilancio sarà a settembre. In questo caso lo faremo anche con l'apposito commissione istituita al Ministero dell'Ambiente che tra le altre cose si occupa proprio di lotta allo spreco alimentare. La ringrazio direttore, allora buon lavoro e a risentirci a settembre a questo punto. Senz'altro, e saluto a lei e a tutti gli ascoltatori. E sentito Carlo Montalbetti, passiamo al vetro con il Coreve, il consorzio di recupero degli imballaggi in vetro. Il Coreve ha appena diffuso gli ultimi dati su raccolta e riciclo e sono tutti col segno più anche per il Sud, ci dice di più Franco Grisan che è il presidente. La panoramica è che la produzione di vetro è stata circa di 0,5%, la maggior parte l'incremento c'è stato nelle esportazioni e il consumo interno è stato abbastanza di basso profilo. La raccolta invece sta crescendo perché la raccolta totale è stato 2,6, la raccolta degli imballaggi e il riciclato, voglio dire, è stato di 1. Quindi noi abbiamo una buona raccolta e un riciclo che però ha un tasso di incremento inferiore della raccolta. Questo significa che noi scartiamo del materiale e scartiamo più di quello che raccogliamo, e questo è un problema che dovremmo risolvere. È la famosa raccolta di qualità che dobbiamo spingere. La raccolta di qualità che noi dobbiamo spingere, e dobbiamo spingere noi come Coreve, però anche le amministrazioni locali che devono dare la comunicazione giusta al cittadino, perché la raccolta differenziata ha senso solo se serve per poter riciclare, e riciclare significa scartare il meno possibile. Noi stiamo scartando una quantità notevole di materiale, tenuto conto che le macchine di selezione debbono, quando scartano un pezzettino di ceramica, scartano 13 pezzettini di vetro, quindi si capisce il problema, cioè meno ceramica mettiamo, meno cristallo mettiamo nella campana dove raccogliamo il vetro, e meno vetro poi scartiamo insieme alle ceramiche che si è costretta a scartare. Quindi cioè significa, scusi, che la macchina, diciamo, che fa questa selezione, nel momento in cui va a pescare, cerca di togliere quel pezzettino di ceramica, finisce col pescare anche del vetro. Esatto, perché individua la frazione, il pezzettino che deve scartare, e poi con un soffio lo espelle, però soffiando espelle anche i pezzettini di vetro che sono all'intorno, ed è questo il problema. Questo fa parte del processo. Quindi le quantità che noi scattiamo sono importanti, perché sono 149.000 tonnellate, una fila di camion di 72 chilometri, quindi questo è un problema che dobbiamo risolvere. Dobbiamo risolvere assieme alle amministrazioni comunali, assieme ai cittadini. Noi facciamo della comunicazione e abbiamo assolutamente bisogno che anche le amministrazioni comunali e i loro delegati facciano comunicazione verso i cittadini e spingano i cittadini a non mescolare materiali che non c'entrano. Potrebbe essere mescolati al vetro, ma che non sono assolutamente mescolati al vetro. Quindi diciamo che adesso che abbiamo fatto il grosso passo, che era quello di imparare a fare questo tipo di raccolta, no? Di non buttare tutto insieme, facciamolo bene, cerchiamo di imparare che cosa ci va nella raccolta del vetro e che cosa non ci deve andare, altrimenti vanifichiamo una parte del lavoro. Assolutamente così. Assolutamente così, e le cose che assolutamente non devono essere mescolate al vetro sono i piatti e le tazzine di ceramica, e il cristallo, e il Pyrex, che sono materiali che se uno non ci pensa sembrano simili al vetro. Alcuni sono proprio simili al vetro, il Pyrex sembra vetro, però in realtà è fatto con un materiale diverso dal vetro dei contenitori, che fondono a temperatura diversa e quindi crea dei difetti ai contenitori. Il problema più importante è la ceramica e il cristallo. La ceramica e il cristallo sono quelli peggiori, diciamo, da inserire nella raccolta. Sono quelli più che noi troviamo di più, e quindi che creano la maggior parte dei problemi. Tra l'altro i piatti che venivano fatti una volta venivano verniciati con una sostanza a base di piombo, proprio per proteggerli di più, perché non si graffiassero, e quello apporta il materiale, questo metallo pesante che si trova anche nel cristallo, che non fa niente alla sostanza, al liquido che è contenuto nel contenitore, perché il vetro segrega. Però esiste una legislazione che noi dobbiamo rispettare, che dice che noi non dobbiamo andare oltre certe soglie di metalli pesanti, di un metallo pesante, quindi dobbiamo controllarlo. Quindi non dobbiamo inserirlo insieme al vetro e non dobbiamo metterlo nel forno e fare i contenitori con rottami di questi materiali. È un errore ancora più grave di altri, questo. Sì. Grazie davvero. Salute. A risentirci, grazie. Buon lavoro. Altrettanto. Bene, ci fermiamo qui per questa puntata dell'Altro Pianeta. Ci ritroviamo con chi vorrà all'Expo, il padiglione, ricordo, Cibusei Italia. Tutta la prossima settimana Radio 24 sarà là. Con l'Altro Pianeta ci ritroviamo la prossima settimana, sempre a questa stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.